I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Bentrovati anche in questa vigilia di Natale, insomma anche Jefferson Ming per un momento è andato nell'hangar, insomma a stappare le sue bottiglie di champagne e a tagliare panettoni, ma non vi vogliamo naturalmente lasciare senza l'appuntamento quotidiano, pomeridiano, con questa trasmissione che ormai è vicina al suo secondo compleanno. Vi riproponiamo oggi la replica della puntata del 25 aprile, quella che abbiamo dedicato all'uscita del libro di due giornalisti, Giampiero Rossi e Simone Spina, realizzato con la collaborazione di Nando Dalla Chiesa, viceministro all'Università dell'ultimo governo Prodi, intitolato I boss di Chinatown, pubblicato da Melampo, nel quale si indaga, no, la nascita, le dinamiche, i personaggi e anche la strana geografia di una criminalità o comunque di un, diciamo, lobbismo sotterraneo, spesso non con intenzioni troppo limpide, nato all'ombra della immigrazione cinese in Italia. Dunque ascoltiamo la prima parte di questa, di questo incontro a tre voci, più naturalmente le nostre, che ci raccontano la realtà cinese in Italia, in particolare a Milano. Oggi una puntata monografica, avremo degli ospiti, commenteremo un libro, ma soprattutto commenteremo una situazione di fatto in evoluzione e forse ancora piuttosto lontana da quelle che sono le sfere principali della informazione italiana. Parliamo di cinema, parliamo di Cina in Italia e parliamo del sommerso, dell'area, del cono d'ombra, dell'area grigia della comunità cinese in Italia, ovvero proviamo a affrontare il tema della mafia cinese in Italia, delle relative attività criminali, di tutto ciò che si comincia poco a poco a conoscere, ma anche delle tante leggende metropolitane che circondano questo genere di situazioni, che naturalmente riguarda una percentuale ridotta, piccola, della comunità cinese in Italia, ma comincia ad essere, come dicevamo, uno stato di fatto. Avremo degli ospiti in studio, ma prima di tutto sentiamo un estratto dal libro che hanno scritto a quattro mani, si chiamano Giampiero Rossi e Simone Spina, il titolo del libro è I boss di Chinatown, la mafia cinese in Italia, ed è edito da Melampo. Chi arriva in Italia non solo deve trovare i quattrini per pagare il viaggio, ma ha bisogno anche di un alloggio e di uno straccio di lavoro. Solo un Lao Ban, un padrone già ben inserito nel tessuto di Chinatown, può garantire la sopravvivenza. Esseri umani spacciati come droga, impacchettati in container o in carovane erranti, costituiscono una fonte inesauribile di ricchezza. Quando all'inizio degli anni Ottanta un volto con gli occhi a mandorla rappresentava solo una variante esotica in un'Italia che apriva le frontiere agli immigrati, c'era già chi aveva capito che questo era un business da non lasciarsi sfuggire. E da 30 anni i trafficanti asiatici continuano a prestare il denaro che permette di varcare i confini della Grande Muraglia illegalmente, a scandire le tappe del lungo percorso verso l'Europa, ad assoldare i corrieri e a consegnare uomini e donne a chi controlla questo traffico nelle nostre città. E qui, per l'immigrato indebitato fino al collo, inizia una nuova vita fatta di clandestinità e spesso di sfruttamento. I cinesi d'Italia arrivano via terra, in auto, mescolati ai passeggeri dei treni internazionali o accompagnati a piedi dai passatori di Ventimiglia e Trieste. Approdano via mare, affidando la propria vita alla brutalità degli scafisti maltesi o albanesi, oppure come normali passeggeri a bordo dei traghetti che salpano dalla Grecia. Nel 1980 erano 730 in tutto. Due anni più tardi, quel numero era quasi triplicato. Nel 2003 i cinesi presenti nel nostro paese sono diventati 83.396. Nel 2005 raggiungono la cifra di 112.358. Un anno dopo, secondo l'Istat, sono 127.822. mentre la Caritas ne stima 186.522. Senza contare le migliaia di clandestini che vivono e lavorano in ogni provincia della penisola. E dunque si chiama i boss di Chinatown, la mafia cinese in Italia, vi ripeto, pubblicato da Melampo, scritto a quattro mani da Giampiero Rossi e Simone Spina. Simone è qui in studio con noi, buon pomeriggio. Salve. E abbiamo anche in linea, in diretta già telefonica fin d'ora, chi si è occupato di introdurre il libro con un saggio, ovvero Nando Dalla Chiesa, sottosegretario uscente all'Università e Ricerca e anche sociologo e professore. Buon pomeriggio Dalla Chiesa. Grazie, buon pomeriggio a voi. E il libro è ricco, unisce scrittura di stile e indagine giornalistica, e questa è una cosa che tra l'altro in Italia piuttosto raramente si incontra, e poi ha al centro questo oggetto di mistero e di inevitabile conoscenza, perché il tempo passa, la comunità cinese in Italia non è più una così un'esperienza folk o qualcosa di bizzarro, è una realtà di tutti i giorni con la quale ci dobbiamo confrontare. Allora io comincerei con una domanda per Simone, la domanda introduttiva di avvicinamento. In linea di massima, chi sono i cinesi d'Italia considerati come comunità in entrata e sui grandi numeri, laddove invece siamo abituati nei confronti di altre comunità a classificarli spesso come aree di grande difficoltà, sottoproletariato spesso che sceglie la via della emigrazione in mancanza di qualsiasi altra alternativa. Invece questa grande geografia misteriosa dei cinesi in Italia, in linea di massima, da chi è composta? Ecco, in linea di massima i cinesi che vengono in Italia, che sono arrivati in Italia negli ultimi 20 anni, ecco, quando è cominciato questa ondata immigratoria che poi è cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli anni fino ad arrivare vette di circa 180-200.000, almeno questi dati ufficiali censiti dall'Istat e dalla Caritas, perché poi in realtà si crede che sia almeno il triplo la comunità cinese in Italia. Provengono quasi tutti esclusivamente da una regione ben precisa nel sud della Cina, e questa ondata migratoria che viene appunto dallo Zhejiang, che è questa zona del sud della Cina, che poi si è riversata in Europa e anche in Italia. I centri, diciamo, principali. Tu intravedi una sistematicità già in questo fatto, nel sì, fatto che esista una specie di ponte come precostruito? C'è una specie di passaparola tra gli immigrati cinesi che vengono da questa regione, che comunque è una regione non poverissima, una regione in cui c'è un grande porto che ha attratto capitali, attrae industria, e quindi anche le aspettative, ecco, di questi immigrati cinesi sono più, possiamo dire, di medio-alto livello, ecco. Le loro ambizioni principalmente è quello di diventare imprenditori di se stessi, quindi di aprire quello che può essere un ristorante, un negozio. Dopo magari però aver trascorso degli anni in Italia in condizioni spesso degradanti, in schiavitù spesso, oppure da operai, perché devono nella maggior parte dei casi, comunque questo succede soprattutto negli anni passati, dover pagare un prezzo molto alto per il viaggio illegale che avevano intrapreso dalla Cina appunto all'Europa e poi in Italia, ecco. Quindi anche per i cinesi vale, per poi dopo arrivare a parlare della parte più dolente, anche più problematica, ovvero la parte che rasenta la criminalità o passa ampiamente questo confine, ma anche per i cinesi vale questa fase di apprendistato particolarmente dura, questa gavetta esistenziale spesso quasi nei dintorni dei limiti dell'umanità, è una costante anche per i cinesi? È una costante, perché nella maggior parte dei casi, comunque quello che abbiamo riscontrato noi e che risulta dalle evidenze investigative, i cinesi pagano cifre altissime, tra i 2.000, i 5.000, 10.000 euro addirittura, a organizzazioni criminali ben ramificate in patria, che hanno dei referenti in Italia e in Europa in genere, e quindi passano i primi anni della loro vita a dover riscattare questo debito che può essere riscattato attraverso il lavoro oppure attraverso il ricatto a familiari presenti in Italia o amici presenti già o presenti ancora in Cina, ecco, che vengono appunto ricattati sistematicamente fin quando non viene estinto questo debito, ecco. Esiste già un problema alla radice. Nando Dalla Chiesa, anche nella sfera della politica italiana c'è stato un evidente ritardo di sintonia, no? Con la presa di coscienza del fatto che una comunità dai lineamenti così particolari, no? la famosa chiusura dei cinesi, la apparente autosufficienza, i tanti misteri che la circondano, anche la politica italiana ha a lungo rimandato il problema. Tutto sommato non davano troppo fastidio, no? Non sporcavano troppo, limiti di convivenza sembravano esserci, si è andati un po' avanti a vedere che succedeva. Questo per esempio anche in quella Milano problematica, che conta su una vecchia comunità cinese e che esattamente un anno fa improvvisamente si è accesa di fuochi preoccupanti. Che cosa è successo? Perché questo ritardo? È un ritardo direi tradizionale nei confronti di ogni forma nuova di criminalità. Purtroppo le nostre capacità di intervento sono eccellenti di fronte alle emergenze e sono sempre al di sotto della necessità di fronte alla quotidianità, alla grigia quotidianità. Quindi non si interviene quando si cominciano a cogliere i primi segnali di qualcosa che non funziona, sono i segnali che normalmente però vengono colti dalle persone che vivono in questi quartieri, che hanno contatti, che vedono verificarsi cose strane, inspiegabili, laboratori stipati di persone invisibili, gli andirivieni non motivabili con le pure esigenze commerciali, gli acquisti continui di immobili con molta liquidità disponibile. Insomma, chi è vicino vede e si preoccupa. Ecco, ma esatto. Per esempio, proprio a livello invece amministrativo, o meglio ancora a livello governativo, a livello di grandi istituzioni, il problema in fondo è stato a lungo, no? Rinviato. Certo. Partecipando a queste attività, probabilmente ne è stato anche testimone. In un certo senso l'integrazione non c'era, la non integrazione, il conflitto neppure, si è mandato avanti, si è fatto correre l'orologio. Si è dato per assodato che potesse esserci una comunità fornita di regole sue proprie sul territorio della Repubblica. Questo è il grande peccato politico. E quindi finché questo recinto, diciamo, non ha incominciato ad allargarsi, oppure non ha incominciato ad entrare in comunicazione con altre forme di criminalità esistenti sul territorio, finché non ci sono stati morti che hanno necessariamente richiamato l'attenzione della grande stampa, si è chiuso un occhio, o meglio, si sono chiusi tutti e due. In qualche caso con la spiegazione legittima che si trattasse spesso di attività commerciali che venivano condotte senza creare fastidio alla legge, senza creare fastidio a nessuno. È una vecchia tradizione di presenza cinese in Italia. Però quello che è accaduto negli ultimi anni avrebbe dovuto stimolare una riflessione molto più profonda e partecipe. Tutto sommato che l'immigrazione clandestina avesse nei flussi che venivano dalla Cina una delle sue componenti più importanti e che soprattutto queste componenti fossero costrette a vivere nella illegalità, lo dicevano molti rapporti, molte testimonianze che fra l'altro Simone Spina e Giampiero Rossi hanno raccolto molto bene. Credo, certo, che il quadro che ci consegnano sia un quadro che ancora di più, ecco, richiede che si metta la parola fine, un quadro che parla, certo, a questo disinteresse. Yo, Rockin', what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right? True. Kara Lewis is our agent. Word up. Zakia and Forth and Broadway is our record company. Indeed. Okay, so who we rolling with then? We rolling with Rush. Our Rush Town Management. So check this out. Since we talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full. Full. thinking of a master plan. Cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I dig deep up, still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents? I need money. I used to be a stick up kid. So I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. We still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street, whistling this, feeling out of place, cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper. Me and Eric being a nice big plate of fish, which is my favorite dish. But without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid. So I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full. Akim, check this out. Yo, you go to your girl house and I go to mine, cause my girl is definitely mad cause it took us too long to do this album. Yo, I hear what you're saying, so let's just pump the music up and count our money. Yo, but check this out. Yo, Eli, turn the bass down and just let the beat keep on rocking. E intanto ci ha raggiunto telefonicamente anche l'altro autore del libro, Giampiero Rossi, a cui do il benvenuto. Buongiorno Giampiero. Buongiorno a voi. Giampiero, io ti volevo chiedere questo molto rapidamente, visto che tu scrivi per l'Unità e frequenti e conosci molto bene la realtà milanese. Prima è stato ricordato che più o meno un anno fa, esattamente, partiva la rivolta in via Sarpi, cuore pulsante della Chinatown milanese. C'era stato un gran disordine e un gran rumore anche sui giornali. Poi, come al solito, le notizie dopo qualche giorno passano in cavalleria e vengono completamente dimenticate. Oggi, dopo un anno, a che punto siamo in via Sarpi? Siamo ancora al punto per cui c'è il classico dibattito amministrativo, politico, che si annoda, attorciglia, decolla e poi scompare sotto traccia di nuovo sul decentramento della zona dei grossisti cinesi, che debbano andare a Gattasoglio piuttosto che in un'altra zona più periferica. Però tra stop and go questa cosa in realtà non ha avuto una sua evoluzione e parallelamente non si è, diciamo, sviluppata quell'attenzione che si presupponeva fosse stata destata dai fatti che hanno accompagnato la vicenda più politica e di strada, diciamo, dei cinesi. Perché in quei giorni lì, oltre alla rivolta, chiamiamola così, che sollevò grande clamore e attenzione dei media, pochi giorni dopo ci fu un duplice omicidio. Quel duplice omicidio fu una storia che per noi che stavamo già lavorando su questo libro aggiungeva un episodio delle circostanze a una sequenza già ampiamente evidente. Giampiero, una cosa curiosa di... con titoli roboanti, la parola mafia che compare anche a sproposito, devo dire, e per poi scomparire, questo è proprio il paradosso. Si fa un titolo clamoroso che dura un giorno. Ecco Giampiero, a proposito della scomparsa poi dai giornali, dalle televisioni dei fatti di via Sarpi, nei giorni successivi alla rivolta ci furono anche delle ricostruzioni riportate per esempio dal Corriere della Sera, che riferiva di telefonate arrivate dalle triadi in Cina che dicevano state zitti, state calmi perché ci state rovinando la piazza. È un disegno, un'immagine credibile di come sono andate poi le cose in via Sarpi? Ma no, questo nessuno degli investigatori che noi abbiamo frequentato assiduamente in questi ultimi 2 anni, diciamo, ci ha confermato questa cosa. Possiamo andare col buon senso. Sicuramente un'organizzazione criminale che muove interessi grossi non ha piacere di avere lì le telecamere fisse, i vigili e tutta l'attenzione del mondo sulla sua zona, diciamo. Però, uno, noi non abbiamo trovato precise tracce di presenze di mafia e triadi sul quartiere Paolo Sarpi, tant'è che ci diventa verosimile l'ipotesi che Milano, anche nella rete dei rapporti della criminalità organizzata cinese, svolga il ruolo che ha svolto per anni per quella nostrana di mafia, diciamo, cioè una centrale di movimento di capitali, di decisioni, di investimenti. Attività. Sentiamo il parere dalla Chiesa, che Milano conosce bene, in relazione a quanto si è, diciamo così, intravisto a Paolo Sarpi, e come sottolineava poco fa Emiliano Enrico, poi è un po' tornato nel sommerso. Che idea se ne è fatto dalla Chiesa? Ma io mi sono fatto l'idea che il rischio di una presenza mafiosa ci sia. Probabilmente ha ragione Giampiero Rossi quando dice Milano viene usata come centro di investimento, di smistamento, di incontro, come è accaduto anche in altri tempi con Cosa Nostra. Però starei comunque molto attento, perché in una città che diventa sempre più, nonostante quello che si possa desiderare da parte di alcune forze politiche, diventa comunque sempre più multietnica e rende anche sempre più larghi i propri canali di comunicazione criminale. Io credo che si debba stare proprio con due occhi aperti così. È vero. È preoccupato dalla Chiesa? Ma mi ha preoccupato lo stesso quadro che mi hanno fornito certo. Rossi e Spina, perché quando uno si vede messe insieme quelle cose, quando capisce che il livello di criminalità non è soltanto quello dei ragazzini nei quartieri o dei ragazzi nei quartieri, ma che ci sono anche dei boss veri e propri che hanno delle relazioni internazionali, che si muovono poi in Italia soprattutto tra Milano, Roma, Firenze con una certa disinvoltura, si muovono a loro agio anche su piazze come Vienna o come Parigi. Può essere una criminalità comune, una criminalità organizzata di tipo normale, ma naturalmente non credo che ci metteranno molto a incominciare a cercare i loro contatti sul piano amministrativo, perché quando si dispone di un potenziale economico come quello di cui dispone adesso la comunità cinese, quando si è in grado di promettere magari in vista del voto amministrativo anche un certo grappolo di consensi, si diventa degli interlocutori interessanti per qualsiasi politico spregiudicato. Io per questo sono sono abbastanza preoccupato, sì. Va bene, torniamo a parlarne tra qualche istante. Continua il nostro speciale Chinatown. Check out someone else. Railroad track in my neighborhood. Ain't no trains around that far, just ain't no good. Wanna know what's going down? And the pimp on the corner looks like the sharpest cat in town. Get caught by the hook of a crook. Hard time for cool. Look out, Jake. What you say? What you carrying, brother? I hope you're clean, 'cause the man is mean. But don't come another further. We all know the answer. We'll come out in time. I might even carry some of your load right along with mine. Thank you, man. Please, 'cause I must be Hercules. I must be Hercules. Continuiamo ad ascoltare questa replica. La puntata, vi ricordo, risale a 7-8 mesi fa, 25 aprile per la precisione. L'abbiamo incentrata sull'uscita di un libro intitolato I Boss di Chinatown, pubblicato da Melampo, scritto dai giornalisti Giampiero Rossi e Simone Spina, con la collaborazione di Nando Dalla Chiesa, nel quale si indagano, si raccontano, si ricostruiscono le storie del nascente sottomondo, no? Come si diceva, underground, come si diceva nei libri noir americani nella città di Milano. Sono arrivati i cinesi, si sono stabiliti, hanno anche spesso e volentieri avviato ottime attività, ma all'ombra di tutto ciò è nata anche una parte più nascosta, più misteriosa, in certi casi venata anche di intenzioni non troppo chiare. Ve la raccontano i nostri ospiti in questa puntata che vi riproponiamo ancora. Torna il nostro speciale Chinatown, ispirato al quasi omonimo volume, I Boss di Chinatown, scritto da Giampiero Rossi, Simone Spina, edito da Melampi, la mafia cinese in Italia. Naturalmente ne esce un quadro, almeno da quello che ci siamo detti fin d'ora, con gli autori, con Nando Dalla Chiesa, che ha curato l'introduzione del volume. Un quadro piuttosto fosco, anzi a tinte molto fosche, vero Giampiero? De distingo l'hanno prodotti a questo punto. Certo, allora, il quadro fosco, per riprendere quello che diceva Nando Dalla Chiesa poco fa, è legittimato dal fatto che le esperienze precedenti su Milano, per esempio, delle altre mafie, quelle calabrese, campana, siciliana, ci insegna qualcosa che non andrebbe ripetuto come errore, cioè il considerare Milano o il nord o certe aree estranee a certi fenomeni. E in questo caso, riferito alla mafia cinese, vale per l'intero territorio nazionale. Detto ciò, però, in questi due anni circa di lavoro, in cui ho avuto anche la fortuna di andare un paio di volte in Cina e quindi immergermi abbastanza in questo mondo, questa gente, va detto che sono delle... i cinesi non sono marziani, sono molto più uguali a noi di quanto possiamo immaginare, tant'è che riproducono persino fenomeni criminali che somigliano in tutto e per tutto ai nostri, quindi c'è il concetto di famiglia, l'omertà e tutte queste cose che sono uguali ai nostri, quindi siamo molto più simili di quello che pensiamo. E in più, non è vero che la comunità è così chiusa, blindata, impermeabile, perché se voi andate alla questura di Milano, dove c'è ci sono investigatori che parlano cinese, li conoscono lì presenti, li conoscono bene, ci sono un sacco di informatori, gente che va a fare denuncia. Ci sono investigatori che parlano cinese, stai dicendo? Sì, sì, ci sono poliziotti della squadra mobile di Milano che hanno studiato con pazienza il cinese e se ne parla nel libro. C'è un ispettore in particolare di cui si parla che svolge un lavoro incredibile, un personaggio da film. È un personaggio da film che si muove a suo agio in questo mondo di Chinatown dove lo salutano tutti, sembra un serpico di Chinatown. Molto cinematografico quello che ci stai raccontando, è interessante. Però è vero, mentre noi ci parliamo lui probabilmente è lì in questo momento. Certo. E gioca a Mahjong con loro anche. E dicevo, comunque i cinesi collaborano, riconoscono le nostre istituzioni, a volte chiedono protezione ai carabinieri dai loro ragazzotti teppistelli che gli chiedono il pizzo o fanno prepotenze di altro genere. Quindi i pregiudizi non solo non ci aiutano a capire niente, ma sono sbagliati. Io avrei una domanda per Simone Spina che riguarda quella che è la prima parte del libro. Il libro è articolato in tre parti. La prima riguarda quello che è l'anello d'apertura poi della catena che porta alle Chinatown italiane, ma in generale in Europa, cioè quello dell'immigrazione. Direi che è molto appassionante la parte del libro in cui viene descritto il viaggio lunghissimo dalla Cina all'Italia, che una volta si faceva via auto e via mare, adesso si fa in più comodi viaggi aerei. Vorrei un po' una descrizione di questi viaggi dalla Cina all'Europa, magari anche soffermandoci sulle tappe intermedie, l'Unione Sovietica, l'ex Unione Sovietica, l'ex Jugoslavia, la Grecia e quant'altro. Sì, ecco, c'è da capire un po' anche la dinamica di questi viaggi. Il migrante cinese non parte dallo Zhejiang per arrivare in Italia direttamente, ma percorre un itinerario lunghissimo fatto di tappe in cui spesso la persona stessa viene scambiata attraverso dei passatori, dei corrieri e quindi rivenduta. Quindi la linea diretta Cina-Italia non è prevista, non è contemplata. Soprattutto nei primi anni 80 e 90. E quindi c'erano situazioni anche paradossali in cui un cinese che scriveva ai propri suoceri racconta di come lui sia arrivato in Italia dopo essere passato per Nairobi, Atene, Belgrado, Zagabria e infatti dice questo mio espatrio ha interessato diversi paesi e numerosi posti dall'Asia all'America Latina all'Europa. Ho avuto delle difficoltà, ma non ero solo, eravamo in molti, abbiamo lasciato la nostra impronta su 2/3 della superficie terrestre. Questa è una testimonianza di una lettera che hanno trovato appunto gli investigatori. Negli ultimi anni invece i viaggi diventano più semplici, organizzati, anche via aereo direttamente, usando passaporti falsi, coreani, giapponesi, oppure anche, come è accaduto in un caso, il visto ADS, che è un visto turistico che poi viene rivenduto nel momento in cui il cinese arriva in Italia, si perdono le sue tracce, diventa appunto clandestino, e poi il passaporto viene riutilizzato e riportato in patria, dove organizzazioni che mettono anche annunci sui giornali cinesi oppure lasciano i numeretti dei cellulari attaccati sui muri di Milano o di Roma possono essere contattati per avere un passaporto falso oppure documentazione contraffatta. Ecco, chiamiamo per un'ultima volta in causa Giampiero Rossi, che è l'altro autore del libro, che poi ci deve lasciare dell'inchiesta, vi ricordo il titolo è I Boss di Chinatown. Insomma, ma Giampiero, da quanto ci sta raccontando anche Simone qui in studio, esiste una specie di compartecipazione illegale a questo arrivo dei cinesi fin dalla partenza? È come se il progetto fosse un po', almeno in parte, malato alla radice. C'è una specie di franchising, una catena di subappalti, di segmenti di servizio, chiamiamolo così. C'è un terziario dell'immigrazione clandestina che inizia nella terra d'origine con le inserzioni sul giornale in cui ti promettono Italia, permesso di soggiorno, lavoro e abitazione a soli $8,000. 10.000 euro o 12.000, secondo il tipo di viaggio più o meno comodo che viene proposto. Questi si rivolgono, proprio inserzioni sui giornali, si rivolgono a questo network, che è un'agenzia in pratica, che usa poi i mezzi su cui non si sta troppo a sindacare pur di arrivare, e continua questa catena, come diceva Simone, con i vari passatori che si occupano di segmenti territoriali, e arrivati a Chinatown, a Milano, a Roma, diventa il primo alloggio, questi dabu, come li chiamano loro, questi piccoli dormitori dove si dormono stipati in pochi metri quadrati nelle lette a castello. È il primo lavoro dove si sentono dalle intercettazioni telefoniche questi stessi passatori che sono persino quasi tenerezza, che si dannano l'anima per trovare un cavolo di lavoro a ciascuno di questi qui che brontolo, si lamentano, no? Oppure li cambiano lavoro perché non sono contenti del primo. Ma questi qui a volte sono persone che vivono borderline, quelli che li accolgono qua non hanno solo attività legale, non sono gangster e basta. Magari hanno un'attività commerciale a Chinatown e fanno anche altre cose, certo. I soldi veri li tirano fuori da questo business, dividendosi le partite in arrivo, 10 certo. Clandestini, 15 e così via. La situazione borderline, ci siamo capiti. Grazie a Giampiero Rossi, lo salutiamo, ringraziamo la sua partecipazione. Io vorrei richiamare un attimo in causa Nando Dalla Chiesa, nella sua, diciamo, nel suo versante, nel suo pandan sociologico e nella sua conoscenza anche di Milano, ma ecco, in una città complessa e anche credo con una geografia sottoterra, no? Un underworld, come dicono gli americani, della delinquenza, del crimine, che probabilmente ha una configurazione, anche una geografia, anche delle nazionalità. Com'è possibile che, insomma, nasce, arriva, si insedia una struttura che voi tutti ci state descrivendo in modo così gerarchizzato, potente, forse anche minaccioso per la sua stessa capacità di essere mimetica? Può succedere all'altezza dell'inizio del XXI secolo? Beh, può succedere anche perché... Perché succede? No, anche perché mettiamoci anche nei panni delle forze dell'ordine. Anche quando incominciano a fare le indagini devono fare i conti con la mancanza di interpreti, devono fare i conti con la presenza di molti dialetti che dovrebbero essere compresi, capiti, l'affidabilità anche degli interpreti. Questo è stato uno dei grandi problemi che hanno intralciato la speditezza anche dell'intervento una volta che si è capita la portata del problema. Quindi l'addestramento degli investigatori a intervenire sulle logiche, sulle mentalità di gruppi con i quali normalmente non si confrontavano, cioè, teniamo conto che anche la nostra criminalità organizzata non aveva mai previsto la riduzione in schiavitù delle persone, sono proprio logiche differenti, linguaggi differenti, paesaggi di provenienza molto lontani, quindi c'è stata quasi una specie di rincorsa nel dotarsi delle conoscenze, delle competenze professionali necessarie. che non si è verificata soltanto con i cinesi. Con i cinesi la questione, come dicevamo prima, secondo me si è aggravata nel momento in cui si è pensato che fosse una comunità chiusa, che non dava troppo nell'occhio, non mandava gli spacciatori sotto le case nei quartieri borghesi, oppure non pretendeva di impossessarsi del territorio di questo di quella periferia. L'atteggiamento diverso ha tratto in inganno sicuramente. Poi quello che diceva Gian Piero Rossi, che dobbiamo stare attenti sempre a distinguere, ma certo questo è stata una sua preoccupazione lodevole dall'inizio, quella di non confondere una comunità con le espressioni di criminalità che dentro le comunità si manifestano. Certo. Ma è ovvio, qui stiamo parlando della criminalità cinese, ecco, non della comunità cinese, ma le comunità, come capitò anche la comunità italiana negli Stati Uniti, spesso certo. fungono da barriera protettiva e da opportunità di mimetismo per i criminali. Certo, anche da grande veicolo in una realtà completamente differente come quella italiana per i cinesi. Ci sentiamo tra qualche istante dopo le notizie per il traffico. Ci sono ancora parecchi aspetti da affrontare, ad esempio quello delle gang giovanili o quello dell'affacciarsi anche negli ultimi tempi di una vera e propria rete di prostituzione cinese. Beautiful time we had together. Now it's getting late and we must leave each other. Tornare a discutere con i nostri ospiti, leggiamo un'altra pagina da questo libro, dai boss di Chinatown, la mafia cinese in Italia. Continuiamo a parlare di guadagni illeciti, continuiamo a parlare di soldi, ma in questo caso in un formato piuttosto inatteso, eppure in qualche modo confacente alle realtà che andiamo a descrivere, che sono tutte così un po' impalpabili, in parte invisibili, parte di un sistema che tardivamente, ma in qualche maniera dobbiamo imparare a conoscere. Qui si parla addirittura, come vedrete, di una banca fantasma. A Milano, una gran quantità di soldi accumulati dai cinesi rimane sempre nei dintorni di via Paolo Sarpi, dove c'è una banca che non dovrebbe esistere e che effettivamente in pochi hanno il privilegio di vedere. Tutti i cinesi però la conoscono. La chiamano Bank of Chinatown. È un istituto di credito che non compare in nessun elenco ufficiale, eppure tratta una quantità sorprendente di quattrini. Nessuno ha mai chiesto e ottenuto un'autorizzazione per aprire uno sportello, ma la banca fantasma attira centinaia di risparmiatori dal Veneto, dalla Toscana e da altri angoli d'Italia. Si nasconde dietro le vetrine e i banconi di una normale agenzia di money transfer e assicurazioni. Ha un nome che dice tutto e nulla: Multiservice SRL. Ma a svelarne la vera identità ci pensa una giovane prostituta che nell'estate del 2005 spiega, un po' riluttante, agli uomini del nucleo speciale di polizia valutaria che cosa accade davvero dietro a quell'insegna. Così, quando gli investigatori decidono di fare irruzione negli uffici della Multiservice, si trovano davanti a uno spettacolo davvero inimmaginabile. Decine di persone che attendono, ordinatamente in fila, il proprio turno allo sportello. Hanno in mano un libretto. Dietro il banco c'è una donna dall'aria professionale, distaccata, che ha un grande affare nel registrare ogni operazione, migliaia e migliaia di euro guadagnati da operai, ristoratori, camerieri, prostitute, commercianti, babysitter, imprenditori, sfruttatori, lavapiatti. Il 4 luglio 2005 scattano sequestri, perquisizioni e una raffica di difficilissimi interrogatori. Negli angoli più impensabili della Multiservice vengono trovati oltre 220.000 euro in contanti, cioè la cassa giornaliera della banca, un migliaio di libretti di deposito, redatti in cinese, che riportano ogni singola operazione oltre a tutti i dati anagrafici del correntista, titoli di credito per circa 120.000 euro. E allora, giusto per riallacciarmi anche a quello che hai detto tu, Stefano, pochi minuti fa, hai accennato ad un'altra piaga che caratterizza le comunità cinesi, le Chinatown italiane, cioè, e non solo italiane, credo, quello delle gang giovanili, che sono in aumento, anche perché la popolazione dei cinesi in Italia sono di giovanissimi soprattutto, e tra l'altro anche con delle punte di violenza molto preoccupanti. Nel libro ci sono molte pagine dedicate proprio alle gang giovanili, considerando anche le origini proprio di come vivono prima in Cina e poi arrivano un po' sbalestrati, un po' spaesati nel nostro paese. Direi che forse va approfondito questo elemento. Sì, le gang giovanili rappresentano, diciamo, la punta emergente della criminalità cinese, quella che per certi versi desta più clamore e allarme sociale, quindi anche quella che poi anche più viene anche più sottolineata dai media, che generalmente invece un po' si disinteressano dell'argomento. Sono gang vere e proprie, organizzate in gruppi in cui il più anziano ha poco più di 20 anni, che si distinguono perché portano una cintura rossa oppure hanno un particolare tatuaggio, quindi tutti hanno tatuato una testa di drago oppure una testa di tigre. Hanno anche delle caratteristiche di rituali che, mentre si sono perse nelle organizzazioni più strutturate, invece nelle gang giovanili si ripresentano. L'utilizzo principale di queste gang viene fatto in realtà dai boss veri e propri, che li utilizzano appunto per spedizioni punitive oppure per chiedere, riscuotere estorsioni oppure per picchiare o, nei casi peggiori, uccidere. Quindi un po' come gli scugnizi per la camorra, che vengono utilizzati per quella che viene, secondo me in modo completamente sbagliato, chiamata microcriminalità, che poi non è affatto micro. Esattamente. micro dal punto di vista anagrafico. Ma per i danni sono bella macro. Dalla Chiesa, sotto un aspetto sociologico, anche su questo aspetto c'è qualche ragionamento aggiuntivo da fare, ovvero anche più giovani, probabilmente non di prima generazione, o spesso non di prima generazione, restano comunque, nel caso dei cinesi, chiusi, prediligono un'aggregazione riservata a soli membri, a soli cinesi. È una caratteristica che dobbiamo pensare continuerà nel tempo. L'integrazione in questo senso non darà grandi risultati? Beh, credo che con l'apertura delle comunicazioni, diciamo, tra una comunità etnica e la società in cui è ospitata, questo fenomeno dovrebbe affievolirsi. Io voglio dire, ho due figli che vanno a una scuola elementare piena di bambini cinesi. Mi sembra che, per esempio, da quel punto di vista di normalità, diciamo così, le cose funzionano. Infatti, credo che la nascita di queste gang. Vabbè, le gang fra l'altro giovanili ci sono in tutte le grandi città, purtroppo, e quindi non abbiamo soltanto quelle cinesi. Certo. Ma qui si è particolarmente esaltata la spinta alla formazione delle gang per ottenere il predominio nella propria comunità. E questa idea di una comunità chiusa dentro cui bisogna esaltare le proprie capacità e farsi notare da una criminalità di livello superiore che spesso richiede comunque delle prestazioni a questi gang giovanili o ad alcuni suoi membri, che spinge al desiderio di una carriera criminale che incomincia in età giovanissima. Ma secondo me una maggiore apertura, una maggiore integrazione, ecco, con la società circostante dovrebbe far venire meno alcune di queste spinte e avremmo delle gang, usiamo questo termine, miste, ma, certo. Ma avremmo anche la fine della spinta a volere primeggiare dentro la propria comunità. D'altra parte a Milano o a Genova in particolare lo stesso fenomeno si ha con gli ecuadoriani, quindi credo che il problema qui sia veramente quello di offrire un livello di integrazione più alto e anche di ottenere una maggiore partecipazione agli studi. Ecco, mentre lei cita semplicemente per nome, per nazionalità, un'altra comunità, viene facilmente in mente quanto poco lavoro e quanto poco ne sappiamo, no? Dal punto di vista anche giornalistico, di conoscenza su ruoli, significati, intenzioni delle varie comunità. È veramente, come diceva lei all'inizio, si è perso un sacco di tempo in questo lavoro. Questo credo davvero che se ne sia perso, sia per il pregiudizio che mette tutti sullo stesso piano, sia per la pigrizia che porta a voltarsi dall'altra parte e a dire abbiamo già tanti problemi con la nostra criminalità che non possiamo interessarci anche di quella degli altri, visto che poi sono fatti loro, ecco, non sono fatti loro, e questo qualsiasi stato di diritto dovrebbe saperlo. Visto che manca soltanto un minuto, volevo chiudere in bellezza con uno dei meriti che ha il libro, cioè quello di sfatare la leggenda metropolitana che i cinesi non muoiono mai, nel senso che una volta morti vengono occultati o fatti sparire in modo più o meno macabro i corpi e quindi non si vedono funerali dei cinesi. Questa mi sa che è la notizia di massimo ascolto di questa trasmissione. Tutti vogliono sapere. E il libro tutto questo perché. È falso, e per noi è stato anche quasi spiacevole dover chiedere. Sfatare questo mito. No? Speravate nella conferma. Speravamo anche quasi nella conferma. In realtà i cinesi, come tutti quanti, muoiono perché non sono riusciti a inventare l'elisir di lunga vita. Insomma, noi li abbiamo trovati, abbiamo fatto anche purtroppo dei giri nei cimiteri di Roma e di Milano per vedere se c'erano le tombe dei cinesi. Ci sono. Anzi, basta fare un giro su internet molto anche, semplice per sì, trovare. Sì, anche su internet, perché ormai alcune aziende che gestiscono insomma questi servizi cimiteriali mettono i nomi dei defunti, ecco, e quindi si possono trovare anche i nomi dei cinesi, ecco. Va bene, grazie a tutti, grazie a Nando Dalla Chiesa che salutiamo per la sua partecipazione, grazie a Simone Spina e complimenti per questo volume, vi ricordo scritto insieme a Gian Piero Rossi, si chiama I Boss di Chinatown, appunto l'introduzione Dalla Chiesa, il sottotitolo è La mafia cinese in Italia e come ci siamo detti racconta, parla, indaga, esplora una parte, la parte sommersa di una comunità, la parte oscura, il cono d'ombra e anche tutte le colpe che naturalmente l'Italia nei suoi ritardi, nella sua scelta, nei suoi comportamenti relativi ha messo in atto. Bene, di Cina, come naturalmente di Stati Uniti e per tanti riflessi anche del resto del mondo e delle cose di casa nostra si occupa ormai da qualcosa che sono, credo, attorno a 500 puntate, no? Jefferson Ming. Questo appuntamento pomeridiano di Radio 24, oggi abbiamo ascoltato insieme questa tavola rotonda con gli autori di questo libro Inchiesta, I Boss di Chinatown, pubblicato da Melampo, vi ricordo ancora i loro nomi, Gian Piero Rossi, Simone Spina e Nando Dalla Chiesa, ma dal momento che poche sono le ore che mancano al momento fatale dell'arrivo del Natale, allora la cosa più importante a questo punto da parte della redazione di Jefferson Ming, del sottoscritto, Stefano Pistolini, di Emiliano Enrico e di tutte le persone che lavorano insieme a noi tutti i giorni per fare questo programma è augurarvi un sereno, felice Natale che vada naturalmente in direzione di un anno che sia il più propizio e così positivo per tutti voi. Ci risentiamo naturalmente, come sempre, anche domani, giorno di Natale, qui da Jefferson Ming su Radio 24. All right, you chipmunks, ready to sing your song? I'll say we are. Yeah, let's sing it now. Okay, Simon? Okay. Okay, Theodore? Okay. Okay, Alvin? Alvin?